Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Verso una nuova stretta o mini stretta, l'ipotesi è di rendere obbligatorie le mascherine all'aperto, mentre si ragiona sulla chiusura anticipata dei locali alle 22 o alle 23. È la reazione politica ad un virus che pare riprendere forza, con un numero di contagi che si attesta intorno ai 2.500, una crescita sia dei ricoveri in terapia intensiva che dei ricoveri e basta, raddoppiati nell'ultimo mese. A questo punto la vicenda calcistica, con il Napoli che non parte, la Juve che si presenta in campo, è quasi di contorno, ma è tema di discussione. Intanto l'Italia fronteggia un suo problema storico, quello del dissesto e delle alluvioni. Di nuovo, 6 vittime senza nome restituite dal mare, un centinaio i comuni colpiti. Ah, e mentre discutevamo però della Juve e del Napoli, dei protocolli, in una Parigi colpita duramente dal virus lo sport italiano regalava un paio di momenti tennistici splendidi. Martina Trevisan, che dopo gli anni difficili e l'anoressia conquista i quarti di finale a Roland Garros contro la numero 8 al mondo, e Jannik Sinner, che a 19 anni schiaccia il numero 7 Zverev, volando ai quarti anche lui. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Simone Spezia. Le 6, 32 minuti e 44 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Lunedì 5 ottobre, siamo qua con Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, il resto della redazione, Gloria Guerrera, Giorgio De Luca e i nostri autori Margherita Ine e Francesco Ciaraffo. E siamo qua con voi, con voi. Abbiamo qualche problema stamattina con WhatsApp, evidentemente c'è qualche collega che la sera chiude il programma per la gestione dei messaggi e quindi mandateci se volete comunicare con noi. Credo che la parte vocale funzioni, quindi, perché arrivano, segue un altro canale, quindi se volete mandare qualche messaggio vocale ci siamo, se volete mandare gli sms quelli li vediamo, oppure se volete c'è la diretta Facebook sulla pagina di 24 Mattino e ce l'ho qua sotto, quindi i messaggi li leggo, li vedo, se volete scrivere là durante la diretta. Ci siamo, i punti di contatto li avete, c'è anche l'email 24mattino@radio24.it, tutto quello che vi pare, ci siamo. Direi che, pur essendo, come vi dicevo, un po' un elemento di contorno, inizierei proprio dalla vicenda di Juve-Napoli. Ormai lo sapete tutti, ne abbiamo parlato infinitamente, l'ASL di Napoli che dice al Napoli che non può partire. La Lega Calcio che dice sì, ma la partita si deve giocare lo stesso. La Juve che a quel punto si presenta in campo dicendo ci sarebbero state sanzioni molto gravi. Chiaramente è il tema di un protocollo che non funziona, di un incrocio tra calcio e questioni sanitarie che non funziona, non va. Agnelli. Le norme sportive dicono che se una squadra non si presenta va incontro a delle sanzioni disciplinari, quindi sotto questo punto di vista il giudice sportivo si esprimerà. E dice, un paio di giorni fa ho parlato con De Laurentiis. Non era ieri che mi sono sentito con De Laurentiis, quindi questo lo sottolineo, ma era un paio di giorni fa, 2-3 giorni fa, e la mia risposta è stata molto breve, io mi attengo ai regolamenti che ci vengono dati. Il professor Galli, ospite ieri di Stasera Italia, a un certo punto parla del virus, dice guardate la situazione è preoccupante, e poi se la prende un po' con la Juve. Se l'avversario è impedito a venire a giocare perché è impedito da un'autorità superiore che gli ha detto tu non ti muovi perché sei in quarantena, il minimo che dovrebbe fare l'altra squadra è non presentarsi allo stadio a sua volta. Sono stati bloccati, mio Dio. E allora di che cosa stiamo parlando? Questa manfrina di questi che vengono allo stadio con la terna arbitrale ci dovrebbero vergognare, a mio avviso, a pieno titolo. Il professor Galli. Va rivisto il protocollo, dice il viceministro Sileri. Ma andrà rivisto chiaramente il protocollo e dobbiamo, adesso che abbiamo lavorato bene fino ad oggi, lavorare sulle quarantene, ridurle con un tampone alla fine della quarantena a 7 giorni. È un po' però ha ragione il ministro della Salute Speranza. Parliamo troppo di calcio, con tutto il rispetto. Io so che attorno al calcio ci sono interessi, ci sono tante persone che lavorano, che vanno rispettate, un pezzo anche di economia del paese. Però attenzione, le cose importanti in questo momento, col massimo del rispetto, sono altre. È il lavoro degli ospedali, è il lavoro dei nostri sanitari, e io penso e insisterò sempre su questo, è l'attenzione alle nostre scuole, che sono un punto fondamentale di ripartenza del paese. Allora insisto, un po' meno calcio, un po' più scuola se possibile. Allora, ha sicuramente ragione il ministro Speranza. Cara Flavia Perina, buongiorno, come stai? Buongiorno, molto bene, voi? Abbastanza bene, grazie. Giornalista, scrive per l'Inchiesta, per la Stampa. Allora Flavia, ha sicuramente ragione il ministro Speranza. È vero dall'altra parte che tutta questa vicenda mette in evidenza qualche buco che in questa ripartenza, che questa fase 3, come vogliamo chiamarla, chiamiamo ancora fase 3, non lo so come la vogliamo chiamare, e c'è oggettivamente, c'è nel mondo del calcio come c'è in altri settori, però nel mondo del calcio abbiamo la rappresentazione più chiara dal punto di vista anche dello show, se vuoi. Il mondo del calcio dovrebbe avere anche un po' la consapevolezza forse che ha fatto un sacco di pasticci all'inizio della pandemia. Io, se non ricordo male, una delle cause scatenanti al nord di tantissimi contagi fu una famosa partita con trasferta dove migliaia di tifosi si accalcarono in uno stadio in Spagna, e quindi forse con questa consapevolezza dovrebbe darsi un pochino di più una regolata. Detto questo, è ovvio che c'è un buco nelle disposizioni dove ognuno tira un po' dalla sua parte e delle sue anche specifiche convenienze. Più poi, diciamolo, il vostro mondo, il mondo dei maschi, è molto condizionato in queste valutazioni dal tifo. Professor Galli di che squadra sia. Non lo so, ha detto, se non sbaglio, ha detto di essere timidamente juventino, se non vado errato. Non la metterla sulla questione di genere. Per esempio, ho mia figlia che è tifosissima e gioca, quindi non la metto. Sì, ma anche le mie, non a calcio, però anche le mie figlie giocano e lo sport è una grande passione. È un'industria importante e tutto, certo. Però veramente in un momento in cui possiamo fare una regola generale, si adeguano tutti, si sono adeguati gli studenti, gli insegnanti, gli operai, le fabbriche, l'impresa, si può adeguare a una qualsiasi regola anche calcio. Si adeguassero pure Juve e Napoli, si adeguassero anche loro. Sentiamo Speranza invece sulle mascherine, va? E una di queste regole sicuramente riguarda le mascherine. L'utilizzo delle mascherine è fondamentale, è veramente decisivo, e quindi più riusciamo a rafforzare l'utilizzo che gli italiani ne fanno e meglio è. Io penso che le regioni che abbiano già fatto questa scelta ne avevano buona ragione anche sulla base dei numeri, e valuteremo, diciamo, anche nel confronto di governo e poi in Parlamento se non estenderne ulteriormente l'utilizzo. Tra l'altro, tra le ipotesi c'è quella di far chiudere i locali prima, alle 22 o alle 23. Considerate che, per esempio, a Parigi da oggi, se non vado errato, da domani chiudono i bar, quindi non è niente di incredibile in questa situazione. Una situazione che, come diciamo, nei numeri va peggiorando, dato che ci sono molti che ci dicono: positivi, contagiati, non vuol dire malati. Ebbene, sappiate che nell'ultimo mese i ricoveri ospedalieri da Covid sono raddoppiati. Ok? La vogliamo mettere così? Così lo sapete. cioè il doppio dei ricoverati che c'era prima, e ci sono delle regioni in situazioni preoccupanti, punto. Poi non è far terrorismo questo, è semplicemente dirvi: mettete la mascherina, state attenti, eh? Dice Cartabellotta, la Fondazione Gimbe, mi preoccupa soprattutto il sud. Oggi ci troviamo in una situazione ottimale perché di tutti i nuovi casi il 95% sono dei soggetti che sono asintomatici, solo il 5% sono pazienti ospedalizzati e lo 0,5% in terapia intensiva, e nonostante le settimane passano questa percentuale rimane stabile. Questo significa che la situazione è sotto controllo, pur con differenze regionali che cominciano a fare vedere che in alcune regioni, soprattutto del centro-sud, queste percentuali si stanno spostando molto verso la parte ospedaliera. Che è esattamente quello che dicevo. Mi dicono Galli essere interista, essere timidamente, un po' interista. Vabbè. Adesso sappiamo anche questo. Flavia, qualche fronte di preoccupazione qua c'è, perché alla fin fine siamo circondati, no? Se guardiamo la Francia, la situazione francese, soprattutto la parte un po' più vicina ai nostri confini, qualche fronte di preoccupazione oggettivamente c'è. Sì, però bisogna anche dire un'altra cosa, no? Perché si punta molto l'indice verso i comportamenti delle persone. E domenica sono cominciati questi controlli di massa, che fatti anche utilizzando l'esercito. Circa 50.000 controlli fatti, sono state elevate soltanto 300 multe e trovate solo 4 persone che erano uscite di casa nonostante fossero in isolamento obbligatorio. Gli italiani stanno dimostrando una obbedienza agli ordini e alle disposizioni sulle mascherine veramente di tipo prustiano, inaspettata, esattamente come durante il lockdown hanno obbedito senza quasi eccezioni alle regole del lockdown. Quindi bisogna anche dire che l'Italia è probabilmente in una condizione migliore degli altri, perché sorprendentemente siamo i più disciplinati, siamo molto disciplinati. Prussiani non è male, la definizione prussiano per il comportamento degli italiani. È del tutto inaspettata per l'Italia, no? Tutti ci raccontano come un paese anarchico, dove tutti se ne fregano delle regole, nessuno sta attento. In realtà siamo un paese molto anziano, dove tutti sono spaventati e la stragrande maggioranza delle persone sta facendo quello che dicono le autorità: metti la mascherina, cerca di osservare il distanziamento, e infatti ne siamo in qualche modo premiati anche da questo tipo di disciplina, perché stiamo oggettivamente meglio degli altri. Cioè, la convivenza col virus noi la stiamo facendo, sì. La stiamo facendo abbastanza bene. E a proposito appunto non la vede così bene per i prossimi giorni proprio il professor Galli, che qua entra un po' più nel suo, ossia quelli, i contagi, i rischi per la prossima settimana, eccetera, sentiamolo. Vale la pena di sottolineare che quello che vedremo la prossima settimana è già scritto, cioè è già successo in termini di diffusione del contagio. Non è che quando uno fa un tampone trova una persona positiva è perché quella persona si è infettata il giorno prima, si è infettata anche diversi giorni prima. Quindi noi ci stiamo portando nella prospettiva di vedere una prossima settimana con un trend in crescita. Così dunque il professor Galli. Sentiamo anche, ho trovato interessante quello che dice Mantovani dell'Humanitas, ascoltiamolo. Virus e malattia sono due cose diverse. Avrei voluto che il virus diventasse più buono, più gentile, o in termine tecnico si attenuasse. Se noi guardiamo la letteratura scientifica internazionale disponibile, non c'è nessuna evidenza che il virus si sia attenuato. Anche un esercizio di sequenziamento di 350 isolati virali in Lombardia ha dimostrato che non ci sono varianti attenuate. La malattia che vediamo è una malattia meno aggressiva. Oh, dice un ascoltatore, anche su questo ci si divide, scrive... sulla nostra diretta Facebook, sulla pagina di Radio 24, dice forse Speranza se la poteva risparmiare. Conviene ricordare, il mondo del calcio è un indotto fondamentale per l'Italia, i calciatori hanno buste paga dove pagano tasse come qualsiasi comune mortale, dietro ai giocatori ci sono migliaia di dipendenti, quindi dice sì, il calcio è importante. Anche su questo ci si divide e si discute. Traffico. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. So it's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. È stato un viaggio interessante, ho imparato molto sul Covid, è stato come andare a scuola, così Donald Trump in un video postato su Twitter dall'ospedale, nel quale appunto dice di aver imparato la lezione, perché la notizia di venerdì, ormai la sapete tutti, è che Donald Trump e la moglie sono risultati positivi al Covid-19 e manca poco meno di un mese al voto negli Stati Uniti, ma anzi vota il 4 di novembre, caro Francesco Costa, vice direttore del Post, autore di Da Costa a Costa, una newsletter meravigliosa alla quale vi consiglio di iscrivervi per capirne un po' di più, che è anche un podcast, e di un libro altrettanto bello che Questa è l'America. Che presentazione, Francesco, ragazzi, come stai? Grazie infinite, buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Allora, ci siamo svegliati stamattina con un sondaggio NBC Wall Street Journal che indica un vantaggio mai visto di Biden su Trump, per quanto contino i sondaggi, ovviamente 14 punti. Secondo te può aver avuto un impatto questa cosa oppure no? Oppure semplicemente è ingiudicabile se la positività di Trump al Covid ha avuto un impatto? Ma il sondaggio di cui parli è stato effettuato dopo il dibattito televisivo, ma prima della le interviste del sondaggio, prima della notizia della positività di Trump, quindi è un sondaggio da prendere, insomma, con grande cautela. Ci dice che c'è un vantaggio da parte di Biden significativo, perché 14 punti, pure se fosse sbagliato, diciamo, di quanto deve essere grande questo errore, ecco perché Biden non si è in vantaggio, però non ci dice come la positività di Trump abbia eventualmente cambiato qualcosa, quindi bisognerà aspettare ancora qualche giorno per vedere il riflesso sui sondaggi di questa notizia. E questo è un primo punto. Secondo te è difficile giudicare l'impatto, no, della positività di Trump su questa campagna elettorale? Il problema per Trump dell'impatto di questa notizia non è tanto il suo contagio in sé, perché insomma altri leader politici sono stati contagiati ed è chiaro ed è noto che insomma in questo momento nessuno di noi può considerarsi al sicuro, nemmeno il Presidente degli Stati Uniti, è capitato dal Primo Ministro britannico, eccetera. Ma ha a che fare con due cose. La prima è Trump è in svantaggio, come abbiamo visto, quindi ha bisogno di fare qualcosa per invertire la rotta, e questa notizia, questa condizione lo porta comunque a non poter fare campagna elettorale, a non potersi inventare nulla. Seconda cosa, Trump da mesi cerca di convincere il paese a parlare meno, a pensare meno alla pandemia, addirittura lui ne parlava fino a qualche tempo fa soltanto con i tempi verbali al passato, organizzava queste grandi riunioni adunate sia alla Casa Bianca che comizi senza mascherine, senza distanziamento, per dare il messaggio che il peggio è passato e che le priorità sono altre, legge, ordine, economia. Ecco, questa notizia garantisce che la pandemia rimarrà il tema fino al 3 novembre. E tra l'altro, vabbè, e queste saranno bollate ovviamente come fake news dal presidente americano. Nella nottata sono state diffuse anche altre notizie, no, Francesco? Quelle secondo le quali lui sarebbe andato al dibattito, quello del quale poi abbiamo parlato, del quale abbiamo discusso, quello con Biden, quando aveva già un tampone e gli dava esito positivo, cioè nel quale sarebbe stato già contagiato in sostanza. Sì, purtroppo diciamo non sappiamo ancora molto poco, ma quello che sappiamo è che la Casa Bianca è stata per niente trasparente in tutta questa vicenda. Noi abbiamo saputo della notizia della positività di Hope Hicks, la sua assistente, perché l'ha scoperto una giornalista di Bloomberg, non perché sia stato comunicato. E ancora oggi non è chiaro quando Trump abbia avuto il suo ultimo tampone negativo, quando il primo positivo e quando poi il secondo e quello dopo cui ha dato l'annuncio. I medici si contraddicono, la timeline non torna, così come sono molto poco trasparenti sulle condizioni sanitarie di Trump, che è stato somministrato un farmaco a base di steroidi che viene consigliato soltanto per i casi gravi di Covid-19 e anzi può far danni nei pazienti che non hanno un caso grave di Covid-19. I suoi livelli di ossigeno sono scesi pericolosamente venerdì, eppure ci è stato comunicato con grande ritardo. È difficile oggi capire quale sia la verità, perché la Casa Bianca sta gestendo tutto questo con pochissima trasparenza. Forse è normale perché parliamo del Presidente degli Stati Uniti, però prendiamo tutto con grande cautela, anche le notizie sulla sua malattia. Flavia Perina, non te la senti di buttarti e di dire se questa storia avrà un impatto sul voto oppure no? Ma sì, ci si può buttare, si può dire che questa vicenda, no, è ovvio, Trump, come tutti quanti i leader che si sono messi su una posizione minimizzante, è ovvio che pagherà uno scotto anche da questo, no? L'atteggiamento che ha avuto, non solo per tutta la campagna elettorale, ma anche per tutta la vicenda Covid, in un paese come l'America, che risulta uno tra i più contagiati, non può sicuramente dargli un vantaggio. Sicuramente è uno svantaggio per lui tutto questo. Bisogna vedere, l'unico elemento di incertezza è come userà, speriamo tutti, anche per un elementare sentimento umano, come userà la guarigione, il ritorno in attività, se riuscirà a trasformare la guarigione nell'atto di una specie di Superman. Ecco, ce l'ho fatta, vedete, questo virus si può vincere con il carattere, la determinazione e le cure giuste, se questa operazione mi riuscirà oppure no, ma io dubito che gli possa riuscire. Immagino che l'America sia un paese spaventato, esattamente come tutti quanti gli altri, e se c'era qualcuno che è incerto, francamente questa vicenda magari lo deciderà a dire: senti, voto per qualcun altro, chissà, o non vado a votare. Flavia, io ritaglio tutto questo, me lo segno e poi vediamo che cosa succede. Ma poi le previsioni politiche ma lo so benissimo, figurati. Però sinceramente, al lume di naso, cioè, che vogliamo dire, che si può avvantaggiare da questa situazione? Difficile. Francesco, a chiudere una cosa molto rapida. Noi abbiamo detto le elezioni sono il 4 di novembre, la realtà è questa, è che questa sarà forse una delle prime elezioni americane nelle quali il risultato non lo sapremo subito, perché proprio il Covid farà aumentare il voto per corrispondenza, sul quale c'è stata una polemica incredibile da parte dello stesso Trump, e quindi in realtà i risultati affluiranno con maggiore lentezza. È corretto, si vota il 3 novembre, correggo. Il punto è che lo scrutinio della notte, il primo scrutinio, quello delle schede votate personalmente, sarà parzialissimo, e bisognerà aspettare di contare le schede votate per posta, che possono essere spedite in alcuni stati anche il giorno stesso del voto. Quindi bisognerà aspettare qualche giorno perché arrivino, poi scrutinarle, e c'è la possibilità concreta che il risultato successivo allo scrutinio del voto per posta non solo sia molto diverso, ma magari contraddica anche il vincitore apparente uscito dalla notte del voto. E questa è un'informazione importantissima per avere anche un quadro della situazione, per sapere che cosa vi racconteremo anche quella mattina alla fin fine. Flavia Perina, grazie dell'inchiesta della stampa, che scrive per l'inchiesta, che scrive per la stampa. Francesco Costa, vice direttore del Post, la sua newsletter, il suo podcast Da Costa a Costa. GR24, ci risentiamo tra poco con la rassegna stampa. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.